Che cosa devo sapere sulla razza? Che cosa si intende per razza? La razza è una massa di uomini simili per caratteri fisici e psichici che furono ereditati e continueranno a ereditarsi. A quale razza appartieni? Appartengo alla razza ariana. Perché dici di essere di razza ariana? Perché la razza italiana è ariana. Le razze sono tutte uguali? Vi sono, fra le razze, differenze fisiche e spirituali. Qual è la missione della razza ariana? La razza ariana ha la missione di civilizzare il mondo e di farne incessantemente progredire la civiltà. Gli ebrei nati in Italia appartengono alla nostra razza? No, gli ebrei, ovunque siano nati, non appartengono alla razza ariana. Perché il regime fascista ha preso provvedimenti riguardanti gli ebrei? I provvedimenti razziali del regime sono stati presi per tutelare la purezza del sangue italiano e dello spirito italiano e per difendere lo Stato contro le congiure dell'ebraismo internazionale. Che cosa fa il Partito Nazionale Fascista per la razza? Tutta l'attività del partito, attraverso le organizzazioni giovanili, femminili, sportive, culturali e dopo lavoristiche, è volta al raggiungimento di un supremo obiettivo, il miglioramento fisico e spirituale della razza. Esiste dunque un vero e proprio delitto contro la razza? Sì, viene commesso un delitto contro la razza tutte le volte che il puro sangue di questa razza, illuminatrice del mondo col pensiero e con le opere, è mischiato, inquinato, contaminato. E tutte le volte che il prestigio di questa razza superiore e dominatrice è avvilito per mancanza di quella dignità e di quella fierezza, di quel senso di onore e di giustizia di cui ogni italiano deve dare esempio ovunque, ma in modo speciale fra genti di diverso sangue e di inferiore civiltà. Quelle che avete sentito sono alcune delle domande e risposte che gli alunni delle scuole italiane imparavano a memoria durante il periodo fascista. Sono tratte dal secondo libro del fascista. Il 26 gennaio di 62 anni fa, l'Armata Rossa spalancava i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo gli orrori dell'Olocausto. Durante gli anni dei regimi nazifascisti, milioni di persone vennero imprigionate nei campi di concentramento. Il tentativo da parte della Germania nazista e dei suoi alleati era quello di eliminare le minoranze e gruppi di persone considerate scomode o di razza inferiore rispetto a quella ariana. Le vittime furono tra i 13 e i 19 milioni. Gli ebrei usano la parola Shoah, che significa distruzione, per definire il tentativo di genocidio. Circa 6 dei 9,5 milioni di ebrei che vivevano in Europa scomparvero in pochi anni. Ma gli ebrei non furono gli unici ospiti dei campi di concentramento. Le varie categorie di prigionieri erano contraddistinte da triangoli di stoffa colorata cuciti sui loro abiti di prigionia. Quello che distingueva gli ebrei era giallo. I popoli Rom e Sinti, che comunemente chiamiamo zingari nonostante sia dispregiativo ai loro occhi, avevano invece il triangolo marrone. Anche loro furono perseguitati per motivi razziali. Porraimos, che significa divoramento, è il nome che questi popoli hanno dato alla loro persecuzione. Ascoltiamo Carlo Berini, ricercatore dell'Istituto di Cultura Sinti. Porraimos, nelle lingue sinte e nelle lingue romane, designa il divoramento che è successo durante periodo fascista e nazista in Italia, in Germania e nei paesi occupati. Il fatto che ancora pochissime persone conoscano questo termine è il segno più evidente di quanto ancora oggi le culture e le società dei Sinti e Rom siano negate. I Rom e Sinti, al pari delle popolazioni ebraiche, sono stati perseguitati per motivi razziali. Quindi l'intento del nazifascismo era quello appunto di distruggere sulla faccia della terra queste popolazioni qua. Si stimano che in Europa all'inizio degli anni 30 ci fossero circa 1 milione di Rom e di Sinti. Alla fine del 1945 ce n'erano meno di 500.000. Quindi vuol dire che la metà di tutte le popolazioni Sinti-Rom in Europa sono state cancellate, come se improvvisamente la metà delle persone che ci sono vicine scomparissero. Spesso si tende a minimizzare la responsabilità italiana nell'Olocausto. Quali furono le differenze tra la politica tedesca e quella italiana rispetto alle minoranze Rom e Sinti? Ciò che è diverso tra l'Italia e la Germania è che in Italia non c'erano così tanti campi di sterminio come ce n'erano in Germania e nei paesi occupati, soprattutto in Polonia. Questo però non vuol dire che gli italiani abbiano meno responsabilità, perché comunque dall'Italia sono partiti i treni di sinti, di rom, di ebrei, ma di testimoni di Geova, di omosessuali per Auschwitz-Birkenau e per gli altri campi di sterminio. In Italia c'era solo il campo di sterminio della Risiera di San Saba. La differenza tra un campo di concentramento e un campo di sterminio è la presenza delle camere a gas e dei forni crematori, cioè l'industrializzazione della morte. Per quanto riguarda i rom e sinti, la paura sia degli scienziati tedeschi sia degli scienziati italiani era uguale, perché era legato al meticciato, cioè la paura è che rom e sinti potessero procreare con non rom e sinti e infettare, come dicevano, la razza pura italica o tedesca. Per quale motivo abbiamo meno notizie dell'eccidio dei rom e dei sinti rispetto alla Shoah? Perché se ne parla meno? Le culture sinti e rom sono culture orali, e mentre in Germania è stato fatto uno sforzo di elaborazione del lutto, di raccolta proprio delle testimonianze per ricostruire quello che era successo, in Italia è pochissimi anni che lo stiamo facendo e che ancora oggi è molto osteggiato e trova poco riscontro anche nei fondi destinati alla ricerca. Quello che più è rilevante in questi momenti, quando si parla di Porraimos, di sterminio, di giornata della memoria, è che ancora oggi i rom e sinti subiscono discriminazioni e segregazione, così come denunciato dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa. La cosa più evidente è ancora costringere queste popolazioni in campi dove sono concentrati contro la loro volontà, i cosiddetti campi nomadi. Ecco, l'Italia, così come ha anche affermato il ministro Ferrero, deve fare uno sforzo e deve uscire da questa tragedia che sono i campi nomadi e questa vergogna per l'Italia, che è una macchia che in Europa ci rende impresentabile. Ma la difesa della razza non era solo lo sterminio delle minoranze per i nazifascisti. Occorreva anche impedire che la razza si sporcasse con i geni degli handicappati, fisici o mentali. Nacque così il programma Action T4. Gli scienziati tedeschi elaborarono la teoria dell'eutanasia sociale, secondo cui bisognava porre fine alle vite non degne di essere vissute, le Lebensunterwerten Leben. In tal modo si sarebbero risparmiate inutili sofferenze a individui irrecuperabili ed in più si sarebbe garantito che non riproducendosi non avrebbero indebolito la razza. I malati psichici furono spesso utilizzati come cavie umane dagli scienziati nazisti e il governo tedesco promosse una vasta campagna di sterilizzazione dei malati che avrebbero potuto infettare la razza, coerentemente con le idee eugenetiche in voga tra gli scienziati razzisti tedeschi ed italiani. Venivano considerati malati anche i prigionieri dei lager che portavano il triangolo rosa, gli omosessuali. La comunità gay si riferisce a quel che accadde negli anni bui del nazifascismo con il nome di Omocausto. Sentiamo Giacomo De Peru del gruppo Arcigay Nuovi Passi. La Germania veniva considerata il paradiso per gli omosessuali nel mondo e negli anni 20 in particolar modo c'era un'associazione omosessuale che contava già 48.000 iscritti. Possono esserci degli eventi, come è stato il nazismo, che possono bloccare irrimediabilmente dei processi estremamente avanzati di emancipazione. Perciò gli anni 20 in Germania, fino ai primi anni 30, vedevano una popolazione omosessuale estremamente emancipata, che poteva sperare addirittura di battersi in Parlamento per i propri diritti. Il nazismo porrà fine a tutto questo in maniera drammatica e al dramma si unirà anche la beffa, perché per migliaia e migliaia di omosessuali portati nei lager, per coloro che riuscirono a salvarsi non ci fu nemmeno la pietà della Germania liberata, perché loro finirono nelle carceri della Germania libera di scontare la propria pena. Durante lo sterminio nazista si calcola circa 100.000 omosessuali perseguitati e arrestati, circa 15.000 morti. L'omosessuale, oltre ad essere vessato dagli aguzzini nazisti, veniva vessato anche dagli altri prigionieri, purtroppo, perché comunque veniva visto come la feccia del lager, veniva usato per piacere personale, come oggetto, veniva addirittura usato per testare nuovi materiali. C'è una testimonianza di omosessuali che venivano fatti rincorrere da cani affinché corressero per parecchi chilometri per testare materiali di nuovo suole di scarpe, senza parlare poi degli stupri, delle violenze, degli esperimenti scientifici praticati sugli omosessuali. E inoltre agli omosessuali nei lager veniva detto che se si fossero prestati alla castrazione volontaria sarebbero stati liberati. Molti, presi dalla disperazione, accettarono di farsi castrare e ovviamente non vennero liberati. E come andò invece in Italia? Nel nostro paese la vicenda è molto diversa, non per questo necessariamente migliore, forse meno truculenta sicuramente. Non c'è stata la deportazione, l'accanimento che ha avuto invece il nazismo. Il fascismo non contemplava nemmeno l'omosessualità, in quanto lo considerava un vizio di francesi e tedeschi, un vizio e una vergogna che non poteva colpire la mascolinità italica. Questo non significa che non ci fossero persecuzioni. Gli omosessuali venivano mandati al confino, spesso allontanati dalle famiglie. Abbiamo documentazioni di madri che denunciavano i figli per omosessualità, e per quanto riguarda la questione dell'omosessualità femminile non veniva neanche contemplata, perché la lesbica nel concetto nazista e fascista non poteva esistere, perché comunque la donna doveva essere lo strumento dell'uomo per raggiungere la riproduzione, perciò non veniva neanche contemplata un'autonomia sessuale della donna rispetto all'uomo. La memoria della persecuzione degli omosessuali è stata una delle ultime ad essere riscoperta. Sembrava dare fastidio anche agli altri reduci dell'Olocausto. Ancora Giacomo De Peru. Tenete presente che negli anni 70 per la prima volta una delegazione omosessuale si recò a Parigi per commemorare la giornata della memoria e venne presa a sassate dai presenti, allontanata in malo modo, perché si diceva che gli omosessuali volevano gettare discredito sull'Olocausto. Perciò questo era un atteggiamento ancora degli anni 70. Figuriamoci persone uscite dal lager che vengono rimesse in carcere per finire di scontare la pena. Queste persone non parlarono mai più della loro vicenda. Inoltre dobbiamo anche ricordarci che non c'è stato solo il nazismo. Teniamo presente che fino agli anni 90 l'Unione Sovietica ebbe il suo piccolo omocausto, mettendo nei gulag gli omosessuali, in quanto anche per il comunismo sovietico l'omosessualità era il vizio borghese, era una perversione borghese che doveva essere colpita. Perciò arrivare a una memoria condivisa oggi è stato qualcosa di difficilissimo, però c'è da dire che in questo momento parlare di omocausto raccoglie molto più interesse che fastidio rispetto a solo 10-15 anni fa. La gente è molto più attenta, speriamo che questo possa servire anche per interrompere nei prossimi anni l'omocausto che continua in numerosissimi paesi in tutto il mondo dove l'omosessualità è reato. E permettetemi di ricordare che solo l'anno scorso in Iran sono stati impiccati due ragazzi di 18 anni per omosessualità. Your valleys and your farms, and you know. Il triangolo rosso cucito sugli abiti nei lager segnalava un altro tipo di prigionieri, gli oppositori politici. 4.350.000 tra comunisti, liberali, antifascisti in genere furono deportati con accuse come resistenza ideologica, sabotaggi, tentata evasione, infrazioni gravi. Per i nazisti erano in odor di marxismo anche i cosiddetti Bibelforscher, i testimoni di Geova. L'unica minoranza ad essere perseguitata per motivi religiosi. I loro triangoli erano viola. I testimoni di Geova rifiutavano il servizio militare e il saluto nazista Heil Hitler, in quanto incompatibili con la loro religione. La convinzione è che esiste un solo Dio, Geova, e solo a lui e a nessun altro potente, nemmeno a Hitler, spetta il nostro saluto. Negli anni del Terzo Reich, circa 10.000 testimoni di Geova, per la maggior parte di nazionalità tedesca, vennero imprigionati nei campi di concentramento. A più di 60 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la giornata per la memoria serve a dire mai più e per imparare dagli orrori del passato. Eppure, anche in questa giornata ci sono le vittime dimenticate dell'Olocausto. E ancora oggi, periodicamente, ci troviamo a parlare di pulizia etnica, leggi razziali, apartheid, persecuzione di minoranze e degli oppositori politici, oppure delle discriminazioni dei diversi o delle diverse in genere. Incredibile che proprio Israele, lo Stato nato per risarcire gli ebrei dalle sofferenze patite durante l'Olocausto, abbia fatto politiche di ebraizzazione a danno delle popolazioni locali con l'espulsione di milioni di palestinesi e che oggi abbia leggi discriminatorie per cui molte organizzazioni per i diritti umani parlano di apartheid. E anche oggi sono in corso crimini in odor di genocidio in varie parti del mondo, dalla Russia di Putin che si scaglia contro i ceceni, alle numerose persecuzioni in Africa come quelle in corso nel Darfur e lo sterminio dei Tutsi a opera degli Hutu in Ruanda. In molti paesi l'appartenenza a un determinato gruppo religioso o l'omosessualità sono ancora reati perseguiti. Oltretutto la stessa memoria del passato non è al riparo dal revisionismo e dal negazionismo. Uno dei crimini più documentati della storia, l'Olocausto, è stato oggetto di una conferenza internazionale nella capitale iraniana, dove storici e studiosi negazionisti hanno esposto le loro teorie poco più di un mese fa. In Francia esiste una legge che proibisce la negazione della Shoah ed è in discussione una legge analoga anche in Italia, infatti è di questi giorni la proposta di legge presentata dal ministro Mastella. Il disegno di legge si è tuttavia esteso a chiunque diffonda le idee di superiorità razziale. Quando entrerà in vigore sarà punibile chi incita o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o comunque atti discriminatori fondati sull'identità sessuale o di genere. La legge punirebbe anche la mera diffusione di idee o analisi storiche che vengano considerate fondate sulla superiorità o l'odio razziale dai magistrati. Il reato di razzismo si profila quindi anche come un reato d'opinione. C'è da chiedersi quindi se tale provvedimento sia coerente con la cultura della tolleranza che vorrebbe difendere.